Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Come sapete, a Milano si sta tenendo una grande mostra dedicata a Caravaggio, ma in contemporanea se n'è aperta un'altra nelle Gallerie d'Italia di Piazza della Scala, dedicata a un unico capolavoro di Caravaggio e alla sua fortuna nella città di Genova, perché questo unico capolavoro di Caravaggio, il Martirio di Sant'Orsola, venne destinato dallo stesso Caravaggio alla città di Genova. E questo quadro arrivò a Genova con delle vicende un po' rocambolesche che vale la pena forse di raccontare. Caravaggio si trovava a Napoli, è il 1610, è l'ultimo anno della sua vita. A Napoli ci sta un agente che si chiama Lanfranco Massa, che è praticamente l'agente che cura gli interessi di Marcantonio Doria, un grande genovese che naturalmente stava a Genova. Marcantonio Doria conosceva Caravaggio e chiede all'agente napoletano di far fare un dipinto che è appunto un Martirio di Sant'Orsola. Lanfranco Massa aveva fretta di consegnare al suo padrone il quadro di Caravaggio e lo ritira che la vernice non è ancora asciutta. Quindi prende il dipinto, questo Lanfranco Massa, e lo mette al sole sperando che il sole faccia seccare velocemente la vernice. Invece avviene il processo inverso, il quadro si scioglie praticamente. Quindi è uno degli incidenti della storia dell'arte più famosa. Caravaggio è costretto probabilmente a riintervenire un'altra volta e a sgridare molto Lanfranco Massa. Poi finalmente il dipinto viene messo su una nave e arriva nel porto di Genova. E la mostra ci racconta anche come venne a accolto questo capolavoro di Caravaggio nella pittura genovese di quegli anni, che naturalmente registrò la presenza di un dipinto così importante.